Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. E naturalmente anche sul web tramite la app che potrete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it, appunto, un triste gioco di parole. Comunque, Città Fujiko Live Club, la trasmissione che inizia sempre con la sigla di Derek and the Dominos, che si chiama, un brano che si chiama Laila, un brano assolutamente storico, e che inizia sempre con una novità. Oggi la novità riguarda una band che si chiama Calexico. Già il nome dice tutto, è l'unione, diciamo, delle contrazioni di California e Messico, proprio perché loro fanno una musica che risente molto di quella messicana, e unita alla musica rock bianca, diciamo così, californiana. La band, appunto, dei Calexico è stata fondata a Tucson, Arizona, quindi non c'entra niente né con la California né col Messico, ma è un dato di fatto, ed è stata fondata da due musicisti che erano la sezione ritmica di una band che si chiamava Giant Sand. Joey Barnes suonava il basso nei Giant Sand, ma qui si è spostato alla chitarra e alla voce, e John Convertino era il batterista, come lo è tuttora con i Calexico. È una band che ha avuto un buon successo, lo sta avendo tuttora perché è ancora viva e vegeta, anche se le quotazioni, diciamo, sono un po' in calando, soprattutto negli Stati Uniti. Nella vecchia Europa invece vanno ancora alla grande. La novità che vi presento dei Calexico non è una novità, come spesso accade per quel che riguarda questa trasmissione. È una ristampa. La ristampa del loro quarto album si chiama Fist of Wire, è stato originariamente pubblicato il 18 febbraio del 2003, ma in occasione del ventennale, appunto nel 2023, stavolta però in maggio, è stato ripubblicato con annesso un altro album, un album live che si chiama More Cowboys in Sweden Live. Detto molto male, ma praticamente sono più Cowboys in Svezia, appunto, perché questo dischetto live è stato registrato in Svezia. Il luogo della registrazione, il China Theatre di Stoccolma, e la data è il 25 aprile del 2003, quindi un paio di mesi dopo la pubblicazione di questo album, che, lo ripeto, si chiama Fist of Wire. Andiamo ad ascoltarceli questi Calexico. Il brano che ho scelto per voi ce lo presenta lo stesso Joey Barnes, e fa così. This is our last song, it's called Güero Canelo. Thank you for being such a great crowd. Is through the low and the bitches honk, pop, drop, pop, here come the cops. Oh, gangs, guns, knives, thugs, chill, chop, choke it, chug, drink, malt, smoke, most time. Brano conclusivo del concerto effettuato al China Theatre di Stoccolma in Svezia il 25 aprile 2003 da parte di Calexico e inserito nella ristampa per il ventennale di questo album che si chiama Fist of Wire. E il brano si chiama Güero Canelo ed è tipico della produzione di questa band che, come dice il nome, Calexico appunto, cerca di unire la musica tradizionale messicana con la musica rock. Questo è più tendente al messicano che al rock, ma comunque un certo fascino. E visto che siamo in Svezia, eravamo in Svezia insieme a Calexico, vediamo un po' di parlare di questo paese che è giudicato molto freddo e compassato. In realtà ha una scena musicale vivacissima, con un sacco di bands e un sacco di concerti tutti i giorni praticamente. La Svezia ha due nozioni proprio scolastiche, è la quinta... è il quinto paese più grande d'Europa, malgrado abbia una popolazione di 10 milioni e mezzo, quindi non tantissimi. La capitale è chiaramente Stoccolma, questo lo sanno tutti, però anche città molto importanti sono Gothenburg, Malmo e Uppsala. Basta, finito con la lezioncina, perché adesso ci ascolteremo naturalmente delle registrazioni effettuate in Svezia qua e là per questo grande paese, anche se molte delle registrazioni sono state effettuate a Stoccolma. Tipo quella con cui iniziamo, un brano che viene da una ristampa, anche questa, di un mini album, anzi un extended play sarebbe meglio dire, che si chiama Blood Bank. È un extended play che è accreditato, anzi è il titolare, è una band che si chiama Bon Iver, che sarebbe una contrazione, una malformazione del francese Buon Inverno. È stato fondato nel 2006 da Justin Vernon, che è la mente intorno a cui poi ruotano musicisti di volta in volta diversi. Questo extended play fu pubblicato inizialmente nel 2009 con quattro tracce eseguite dal solo Vernon, che come dicevo è colui che fa tutto nell'ambito di Bon Iver. È stato poi ripubblicato 10 anni dopo con le stesse con le quattro canzoni originali più altre quattro canzoni, le stesse canzoni, però in versione live e in versione con la band. La title track, che appunto si chiama Blood Bank, è stata registrata all'Ericsson Globe di Stoccolma il 31 ottobre del 2018. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare, Blood Bank, Bon Iver. That you don't know how to tell. but you know that it's good, girl, 'cause it's running you in a thread. Then the snow started falling, we were stuck out in the car. Right now, waiting for your love. make a choice now. I push, come to a show. Yeah, things seem kinda different. It ain't the way it was. Remember what your mama said. The moment lies in us. This time I love you. Last time I hate you. This is your town. Give me some power, people. Hey, ah, break down. È un dato di fatto che nei paesi nordici il metallo, la musica molto aggressiva, molto pesante, sia molto ben vista, e questi Ugly Kid Joe sono fra le punte di diamante di questo genere, a metà fra il punk e l'heavy metal, l'hard rock, diciamo. Ugly Kid Joe vengono da Isla Vista in California e hanno vissuto due vite, la prima dal 1989 al 1997, poi si sono sciolti e si sono riformati nel 2010, sono tuttora attivi in giro per il mondo. Loro hanno fatto diversi singoli con canzoni dal vivo e questo è uno di quelli, il singolo Busy Bee, che comprende tre canzoni registrate al Melody di Stoccolma il 1 novembre del 1992. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Don't Go, Ugly Kid Joe. come a volte capita, mi piace uscire dal confortevole, per quel che mi riguarda, territorio chiamato rock music, per avventurarmi in altre esperienze auditive. E qui abbiamo uno dei grandi della musica jazz mondiale, si chiamava Ornette Coleman ed è stato uno dei fondatori di quel movimento che si chiama tuttora, si chiama così, Free Jazz. Lui veniva da Fort Worth, Texas, e oltre al sax, come abbiamo ascoltato in questo brano che si chiama European Echoes, suonava anche la tromba e il violino. L'album che ci siamo ascoltati si chiama The Golden Circle ed è già esplicativo del locale in cui è stato registrato. Manca solo da dire che il locale era sito a Stoccolma e la registrazione è stata effettuata il 3 e il 4 di dicembre del 1965. Torniamo però a terreni più consoni a questa trasmissione che, lo ripeto, si chiama Città Fujiko Live Club, e con un personaggio che credo molti di voi non abbiano mai sentito nominare. Si chiamava Shen Tyler, anche lui si chiamava purtroppo, perché ci ha lasciato nel 2020. Lui iniziò la propria carriera con una band spettacolare, ve la consiglio caldamente, si chiamavano Dax Deluxe. E suonava la chitarra e cantava. Uscì da quella band per formare la sua propria band, appunto la Tyler Gang. Lui, come dicevo, si chiamava Shane Tyler ed è una di quelle formazioni del sottobosco musicale britannico che avrebbe meritato più successo, e aveva più successo all'estero che in madrepatria. Infatti il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un album che si chiama Live in Stockholm, che è stato registrato all'Akural Bar della città, appunto della capitale svedese, nel marzo del 2013. Il brano si chiama Hurricane, loro, lo ripeto, si chiamavano Tyler Gang. Yeah. Thank you. Grande personaggio, si chiama Dan Bird, nel 1980 formò una grandissima band che si chiamava Georgia Satellites, si chiama tuttora così ma senza di lui, perché lui nel 1990 la lasciò per la propria carriera solista, accompagnato da una sezione ritmica che si fa chiamare Homemade Sin, i peccati fatti in casa. È un grande grande personaggio secondo me, purtroppo ha avuto grossi problemi di salute, problemi di leucemia, e nel 2017 ha concluso praticamente la propria attività per speriamo per un periodo che poi limitato, per cui riesca poi a risolvere i suoi problemi di salute. E il brano che ci siamo ascoltati è proprio un brano di grande successo dei Georgia Satellites, si chiama Keep Your Hands to Yourself, è stato registrato al festival, Rock Festival Sweden, in una città che si chiama Sölvesborg, nella breve estate nordica, in Svezia ma anche in Norvegia e anche negli altri paesi del nord, i festival veramente pullulano. Questo è uno di quelli, appunto, lo Sweden Rock Festival, era l'11 giugno del 2016. Dan Bird and Homemade Sin, consigliatissimi. Tell you when you always knew the things to say. C'è un locale a Stoccolma che si chiama Gino, o almeno c'era nel 1994, esattamente il 17 maggio, sul palco del Gino's. Erano di scena gli Breeders, una band che arrivava da Dayton, che è stata formata da due sorelle gemelle, Kim Deal, chitarrista e voce, e sua sorella Kelly, anche lei alla chitarra. Kim Deal, molti di voi la ricorderanno come bassista della prima edizione dei Pixies, e appunto lasciò i Pixies per andare poi insieme alla sorella a suonare e a formare questi Breeders. Breeders che hanno avuto grossi problemi con le droghe, con l'alcol, e la loro carriera è sempre stata molto altalenante per questa serie di problemi, per meglio dire. Il brano che ci andiamo ad ascoltare da un album che si chiama stranamente Live in Stockholm, si chiama Saints, loro sono Breeders. If she can get through it, called I Just Want to Get Along. One of the bartenders knows how to make mud slides. Which bartender? I'm gonna go. A concludere questa piccola rassegna di piccola forzatamente a causa sempre del tempo tiranno, piccola rassegna, dicevo, di brani che sono stati registrati in Svezia. A concludere sono arrivati i Bad Religion, grandissima band proveniente da Los Angeles, ormai in giro da tantissimi anni, più di 40, e una band anche molto impegnata nel sociale e anche contesti molto politicizzati. E, per la cronaca, alcuni anni fa, oramai molti, nel 2010, in occasione del 30° anniversario della loro formazione, fecero diedero la possibilità di scaricare gratuitamente un album live intero che si chiamava Third Years Live, e invece questo era un album ufficiale, diciamo così, che è stato pubblicato normalmente e che vedeva brani di tutto il mondo, nel senso che sono brani che sono stati registrati in tutto il mondo. Si chiama All Ages l'album, questo in particolare, che è uno dei loro classici, si chiama Fuck Armageddon, This Is Hell, è stato registrato al Karen Club di Göteborg il 8 ottobre del 1994, e come dicevo conclude la prima parte di Città Fujiko Live Club. Uno strumentale per aprire la seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, 5 luglio 2023. Strumentale che arriva dalla novità che vi propongo quest'oggi, i Calexico, con la ristampa del loro quarto album che si chiama Fist of Wire, ristampa che contiene un dischetto allegato che si chiama More Cowboys in Sweden. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Dub Latina. come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e anche oggi 5 luglio ci sono veramente tantissime cose ed è anche abbastanza logico perché nei mesi estivi, soprattutto qua in Italia ma in tutto il mondo, i festival, i concerti all'aperto pullulano e le registrazioni anche. Oggi abbiamo tantissime cose, per cui andiamo subito ad iniziare con una registrazione del 5 luglio del 1969. In questo giorno i Rolling Stones organizzarono un mega concerto ad Hyde Park per introdurre al pubblico, far conoscere al pubblico Mick Taylor, il nuovo chitarrista che aveva da qualche tempo sostituito Brian Jones. Il brutto caso però volle che Brian Jones morisse 2 giorni prima, e per cui alla fine il concerto, oltre ad essere una sorta di presentazione per Mick Taylor, diventò anche un tributo a Brian Jones, una morte del quale, sulla quale ci sono state sempre molte perplessità. Comunque questo è un altro discorso. La line-up di quel giorno, ripeto, ad Hyde Park, comprendeva la Third Band, i Family, Alexis Corner e i King Crimson. La prima uscita dei King Crimson ufficiale avvenne proprio quel giorno, in quel mega concerto. Figurarsi la tensione che la band doveva avere. Il tutto è stato poi immortalato nel numero 12 della serie King Crimson Collectors Club, che adesso ci andiamo ad ascoltare, che è stata registrata proprio il 5 luglio del 1969, un super classico che credo non abbia bisogno di presentazioni, almeno lo spero. Just begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. 3 lullabies in an ancient tongue for the court of the Crimson King. Put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march. The cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the Crimson King. green was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The passenger blood lifts his hand, the orchestra begins. As sparks fly from the grinding wheel in the chord of the crimson king. La registrazione è quella che è, ma come si suol dire, il valore storico di questa registrazione è immenso. Primo concerto dei King Crimson, siamo al 5 luglio 1969, Hyde Park, in apertura di questo mega concerto organizzato dai Rolling Stones. Il tutto contenuto in un numero 12, come detto prima, della serie King Crimson Collector Club, che ha edito un sacco di concerti dei King Crimson, per quello che li ascoltate spesso in questa trasmissione. Passiamo agli anni 70 con una registrazione effettuata a New York City, al Central Park. C'era un festival che si chiama Shuffle Festival, e in quell'occasione, il 5 luglio appunto del 1976, sul palco salirono in tanti, perché i Blood, Sweat and Tears è tuttora una band che comprende numerosi musicisti, fra fiati, doppia tastiera, percussioni, eccetera, eccetera, eccetera. I Blood, Sweat and Tears furono fondati da Al Kooper nel 1967, poi lui se ne andò subito dopo il primo album, e con qualche periodo di hiatus, più che scioglimento, sono arrivati fino ai nostri giorni. È stata una band che ha molto, molto combattuto, fra virgolette, scusatemi il termine, non me ne viene uno più pacifico, in termine metaforico chiaramente, con i Chicago, per il gruppo con i fiati, per chi è stato il primo gruppo con i fiati. Loro non erano molto più legati al jazz, i Chicago più al rock, ma erano due grandissime band ugualmente. Ci andiamo a sentire l'inizio di quel concerto con tanto di introduzione, e il brano si chiama Spinning Wheel. Ladies and gentlemen, without further ado, it is indeed my great pleasure to introduce to you Blood, Sweat and Tears! What goes up must come down. Got to go around talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. Got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning thank you. painted pony, let the spinning wheel fly. La voce di David Clapton Thomas è sempre bellissima, ma anche il resto della band fa veramente faville. Blood, Sweat and Tears dal vivo a Central Park di New York City, era Spinning Wheel il brano che ci siamo ascoltati, 5 luglio 1976. Gli anni 80 sono rappresentati da una cosa un po' particolare, l'ultimo concerto di una grandissima band, l'ultimo concerto per quel momento, nel senso che sto parlando di Bauhaus, che sono attivi tuttora dal 1978, ma ormai sono sciolti e riformati innumerevoli volte. Però la prima volta in cui si sciolsero fu appunto nel 1983, e la data specifica è proprio il 5 luglio, perché quello che ci andremo ad ascoltare è l'ultimo concerto fatto dalla band di Peter Murphy e di Daniel Ash. La band è stata registrata a Hammersmith Palais di Londra, non l'Odeon. Ad Hammersmith c'erano tre o quattro venue veramente incandescenti all'epoca, e l'Hammersmith Palais era una di queste. Era un locale in cui si pattinava, c'era una pista di pattinaggio e poi un paio di volte alla settimana c'erano anche dei concerti. L'album si chiama Rest in Peace, non a caso appunto, e The Final Concert. Il brano che ci andiamo ad ascoltare da questa grandissima band, per quel che mi riguarda, è la title track del loro quarto e ultimo album all'epoca. Poi dopo appunto vi dicevo si sarebbero sciolti, e l'album si chiama Burning From the Inside. Loro sono Bauhaus, 5 luglio 1983. We'll be right back. make a point to counteract a threatening hand. Close my home. Let's be near. Let's be near the atmosphere. Traffic. Face the same way, still it takes all day. Take a look to my left. Pick out the worst and the best. She paints a lip, a greasy eye and thick. Another mirror stare, and she's growing. It's a fair to kill an unborn scare. You talk dirty to a priest. It makes him human at least. Is she running away to start a brand new day? Or is she going home? Or is she driving? Got a body in the boot, just bags full of food. There's a model's legs, but all the women's are their names. She shouts down the phone, she missed the payment on the loan. She gotta be above the rest, keeping up with the best. For a crook, wrote a hardback book to teach kids how to read. Sell your body on the street, and that's an odd job. Another uptown snob, but have I got you all wrong? Like a new wagon. Lo stesso Kelly Jones ha presentato questo brano che si chiama Traffic. Kelly Jones è chitarrista, cantante, nonché leader di una band che si chiama Stereophonics, una band che viene dal Galles, che è attiva dal 1992 e che per quel che mi riguarda è un'ottima super band. E purtroppo lato negativo della cosa, hanno fatto un solo album live nel 2006, sarebbe ora che ne facessero un altro. Questo era un extended play ormai di tanti anni fa, che si chiama Festival Live EP, perché è stato registrato appunto durante l'estate del 1997 in vari festival, in particolare questo nel quale è stato registrato Traffic, era il festival di Belfort in Francia. C'è stato un periodo non troppo lungo, a dire il vero, nel quale i giornali quotidiani britannici per incentivare l'acquisto soprattutto del pubblico giovanile, nella loro versione domenicale inserivano un dischetto che conteneva una parte multimediale e una parte dedicata a una band. Ce ne sono veramente tanti, ci sono i Simply Red, i Simple Minds e altri che adesso non ricordo. Quello che interessa a noi quest'oggi è quello che il Daily Mirror pubblicò appunto nel 2005, che vede all'opera gli Oasis. Allora sono tuttora al top secondo molti, e sono le voci delle loro riunioni, dei loro litigi, sono sempre sulla cresta dell'onda, per meglio dire sulla bocca di tutti, nel bene e nel male. Qui abbiamo quattro pezzi, di cui tre registrati dal vivo, ma uno è quello che interessa a noi perché è stato registrato a Finsbury Park a Londra il 5 luglio del 2002. È uno dei loro classici, si chiama Little by Little, loro sono Oasis. This is called Little by Little. Yeah. Erano gli Oasis a Finsbury Park il 5 luglio del 2002, uno dei grandi concerti della loro carriera che ha avuto tantissimo successo, per me ancora abbastanza inspiegabile, ma comunque hanno sicuramente ragione loro. Era appunto 5 luglio 2002, il brano si chiama Little by Little, tratto da questo dischetto che era accluso alla versione domenicale dei Daily Mirror nel 2005. Ultima cosa per quel che riguarda Record Today di oggi, arriva dagli Incubus, una band che arriva dalla California ed è attiva dal 1991. Fra l'altro, fra il 2003 e il 2004 pubblicò ben 4 album dal vivo, registrati in qua e là per il mondo. C'era la Svezia, c'era la Malesia, ce n'erano diversi. Però dal 30 giugno al 6 luglio del 2011 chiamò a raccolta i propri fans, non tutti perché sono stati troppi, nel proprio quartier generale per qualche giorno insieme, per discutere, per parlare, per fare cose, come si suol dire. Tutti questi giorni terminavano con un concerto. Poi fu uno di questi concerti, quello del 5 luglio, fu trasmesso anche in diretta via web ed è stato pubblicato in questo album che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama HQ. HQ è chiaramente la contrazione di Headquarters, perché appunto il tutto avvenne nel quartier generale degli Incubus, questa band che negli Stati Uniti ha un grandissimo successo, e il tutto registrato appunto il 5 luglio del 2011. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è uno dei loro classici, si chiama Wish You Were Here, ma non è quella dei Pink Floyd. I wish you were here. Incubus, quindi, a concludere questa Recorded Today di oggi, dal 2011, il 5 luglio. Questo era Wish You Were Here. E andiamo velocissimamente a concludere con la novità che vi ho proposto quest'oggi dei Calexico, ma prima vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo, registrata dal vivo in tutte le epoche e di tutti i generi, dal 103.1 MHz di Radio Città Fujiko via Zanardi in Bologna. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, stesse frequenze, stesse modalità d'uso, Calexico, che purtroppo dovrò interrompere. Il brano si chiama Not Even Stevie Nicks. Ciao a tutti da Nevio. There's a song called Not Even Stevie Nicks. Why? I do not know. Never here like a vulture. The motor.